Il gastronauta di Davide Paolini. Sine qua non, cari gastronauti. Ebbene, oggi faremo un viaggio assieme, un viaggio molto intrigante, un viaggio forse poco conosciuto, un territorio che probabilmente molti italiani non conoscono, ma che varrebbe veramente la pena di andare a visitare. Andremo nel Delta del Po, andremo appunto in quell'area di provincia tra Rovigo, che confina anche con Ferrara, un'area sicuramente interessante, veramente molto interessante, e scopriremo tanti prodotti che magari alcuni pensano che non ci siano in quell'area, ma vedrete, ci saranno delle grandissime e belle sorprese. Ebbene, io questo viaggio lo devo iniziare con un esperto, ovviamente, che ci possa condurre per mano, magari darci così delle indicazioni iniziali, poi ci metteremo in viaggio. Ebbene, lo faremo con Emanuela Finesso, direttore dell'ente parco del Delta del Po, della regione Veneta. Buongiorno Emanuela. Buongiorno a lei. Allora, ci conduce per mano in questa terra così bella, così affascinante, magari così poco conosciuta. Ecco, quali sono le indicazioni, una volta arrivati nel parco del Delta, le cose più intriganti da vedere dal punto di vista geografico-naturalistico? È una bella domanda e anche una risposta difficile, perché sono talmente tante le cose. Diciamo che la cosa che ci caratterizza di più è proprio il paesaggio, no? Il paesaggio di questo fiume Pensile, che è ben arginato, che si stende da tutto il delta. Sono 5 i rami attivi, 7 a seconda appunto dei geografi, ma diciamo che tutto è come una grande mano, no? Che porta questi 5 rami verso il mare, e appunto è tutto in provincia di Rovigo. Come ha detto lei giustamente, è ancora poco conosciuto questo territorio, ma è fatto di tantissimi habitat naturali bellissimi, dagli scanni, che sono le prime difese a mare, poi le lagune, le golene, le valli, e quindi girando questi posti che sono grandi, perché il delta è grande, sono sterminati queste campagne dove lo sguardo si perde, perché non c'è niente che appunto lo interrompa. Poi noi abbiamo, come parco del Delta del Po, appunto abbiamo dei siti di particolare pregio, che sono per esempio il giardino botanico di Porto Caleri e Rosolina, che sono l'oasi di Capisani nel territorio del comune di Porto Viro. Abbiamo la sacca degli Scardovali in comune di Porto Tolle, abbiamo un piccolo museo dove ci sono, e anche degli scavi archeologici importanti, nella località di San Basilio d'Ariano Polesine, e senza contare poi Adria, che ha culturalmente, insomma, Adria ha il suo museo archeologico, poi al teatro, alle riviere, ecco, del Canal Bianco. La interrompo perché rimanga con noi, comunque, perché così spezzettiamo un po' questo nostro viaggio. Lei ci ha dato una serie di informazioni straordinarie. Io ora voglio così parlarne con Alessandro Faccioli, che è un esperto di pesca del Delta del Po, e vorrei parlare delle lagune di Caleri e Marinetta. Buongiorno Faccioli. Buongiorno a lei. Cosa hanno di particolare queste lagune? Abbiamo sentito la dottoressa Finesso, ci ha già detto appunto di tante lagune. Cosa hanno dal punto di vista della pesca queste lagune particolari? Hanno un ambiente che è irripetibile, un ambiente nel quale si svolgono tutte le attività di pesca e di molluschi coltura, quindi l'allevamento delle vongole veraci, ma anche delle cozze e delle ostriche, con una tecnica assolutamente compatibile con l'ambiente lagunare. Ecco, ha detto le ostriche, quindi ci sono anche le ostriche, questo è importante. Ci sono le ostriche, vi sono dei veri e propri giacimenti, dei banchi naturali che alcuni pescatori stanno ipotizzando di sfruttare da un punto di vista commerciale, e si sta partendo in questo momento. Quindi saranno commestibili queste ostriche? Sono sicuramente commestibili, di altissima qualità. Adesso bisogna affinare un po' le tecniche, cioè prelevarle dal fondale, metterle in sospensione, perché possano avere quelle caratteristiche che il consumatore ovviamente chiede. Bene, un caso analogo, ricordo, è a Cattolica. A Cattolica, appunto, sempre in Adriatico, anni fa sono state scoperte appunto delle ostriche naturali, sono state pescate, diciamo così, però poi per 2 anni sono scomparse, quindi bisogna fare sicuramente forse molta attenzione alle ostriche naturali. Bene, torniamo alla dottoressa Finesso, lei rimanga con noi Faccioli, e torniamo alla dottoressa Finesso, lei ci ha parlato appunto di tantissime cose, di 5 rami, lei dove consiglierebbe, diciamo, a un viaggiatore goloso che volesse fare un viaggio, goloso non solo ma anche attento alla natura, che volesse fare questo viaggio, di partire da Adria e poi scendere? Sì, io sì, beh, Adria è un po' la porta del delta, anche se come ripeto il delta è grande, quindi c'è un po' di strada da fare fino ad arrivare appunto al mare, però Adria è uno dei 9 comuni che il cui territorio appunto è toccato dal parco del delta del Po, quindi Adria ha queste sue caratteristiche, come dicevo prima, poi c'è Loreo per esempio, che è la piccola Venezia, poi appunto abbiamo i comuni di Corbola, Papozze. Perché la piccola Venezia? Perché la piccola Venezia? Loreo? Sì. Perché ha le calli, ha delle calli, delle viuzze molto strette, ha dei portici che ricordano un po' appunto, e poi perché è stata dominata dai veneziani, lì l'attuale biblioteca di Loreo per esempio erano le vecchie carceri del dogado veneziano, quindi è molto carina Loreo, un piccolo centro ma molto carino. Quindi da visitare, poi, insomma, questo è un punto sicuramente da andare a verificare. Sì, sì, sicuramente. Poi invece appunto per quanto riguarda ambienti più naturali, abbiamo l'oasi di Panarella nel comune di Papozze, per esempio, che è gestito dal WWF, e per chi ama la natura e può anche fare una passeggiata in bicicletta, è molto bello. E poi ci addentriamo nel delta, diciamo, più profondo, diciamo così, che quindi andiamo, lei mi chiedeva un ramo del Po molto bello, molto suggestivo, il Po di Maestra, perché è il ramo più sinuoso, perché è fatto di appunto non è dritto, insomma si muove e quindi tra l'altro nel Po di Maestra troviamo una delle garzaie, che sono degli habitat dove tutti gli eironi, tutti gli ardeidi, che sono appunto tutte le famiglie di questi meravigliosi uccelli, eroni bianchi, eroni cinerini. Lei ci ha convinto e avrà convinto tantissima gente a prendere e fare un viaggio nel delta. Io la ringrazio perché è veramente, veramente precisa e sicuramente molto convincente. La ringrazio. Grazie a voi. A presto. Grazie a voi, buon lavoro. Bene, allora andiamo al mercato ittico di Scardovari, in provincia di Rovigo, da Cesare Vendemmiati, vicepresidente anche della cooperativa Pescatori Adriatico. Buongiorno Vendemmiati. Salve. Cosa il mercato di Scardovari, c'è tutti i giorni? Tutti i giorni, 5 giorni alla settimana. E cosa si può acquistare questo mercato veramente di locale? Beh, insomma, tutto il pesce dell'Alto Adriatico sicuramente, e poi abbiamo pesce di fiume e pesce di laguna. Quindi a 360 gradi, insomma. Beh, diciamo di sì. È una particolarità, una cosa che magari si trova solo lì? Non penso ci sia una cosa, perché come vi ho detto è un pesce, cioè forse il pesce di laguna, ecco, perché il delta del Po è una laguna praticamente. Ecco, quale specie di pesce si trovano allora di laguna? Ce le dica, perché i nostri radioascoltatori conoscono. Abbiamo le acquadelle, abbiamo vari tipi di cefali, c'è anche la passera, il ghiozzo. Ah, il ghiozzo anche, si fa un buon risotto col ghiozzo, se non erro. Sì, è buonissimo quel ghiozzo. Per chi lo sa lavorare, perché non è facile. No. Poi, tutto il pesce deve essere lavorato come Dio comanda, diciamo, perché sennò. Oltre al ghiozzo, poi? Beh, dunque, di laguna, qualche branzino, perché i branzini riusciamo a prenderli anche nelle lagune, insomma. Dopo, noi abbiamo una laguna, una sacca, chiamata Sacca di Scardovari, che è famosa per le nostre cozze, perché insomma quando la stagione è un po' favorevole, non dico favorevolissima, un po' favorevole, le cozze sono di un altro pianeta, ecco, rispetto a tanti altri posti. Bene, quindi allora Scardovari per le cozze. Torno un secondo velocissimamente da Faccioli, invece per le lagune di Caleri e Marinetta sono le vongole, se non erro, vero? ma questa è la specie più importante ed è la specie che dà lavoro a centinaia di persone, sono circa 400 i pescatori che si occupano di questa attività, quindi è assolutamente la specie più importante. Bene, io ringrazio Vendemmiati e Faccioli che ci hanno dato queste indicazioni sul pesce, molto importante per i nostri viaggiatori golosi. Grazie, grazie a tutte e due e a presto. Buongiorno, grazie a lei. Continua questo nostro viaggio nel Delta del Po, così affascinante dal punto di vista del territorio, ma anche da scoprire dal punto di vista dei prodotti. E molti forse non sanno che qui si trovano tutta una serie di grandissimi prodotti. E ora li andremo a scoprire, magari ce ne parlerà un personaggio che di prodotti se ne intende. È uno chef che da anni è sulla scena. Salve Igles Corelli. Ciao Davide. Titolare della locanda delle Tamerici a Ostellato. Esatto, nel parco del Delta del Po. Eccoci qua. Senti Igles, puoi dirci quali sono i prodotti che si possono trovare nel Delta? Uno che va a fare un viaggio nel Delta del Po e dice, beh, voglio anche conoscere i prodotti. Certo, allora guarda, qui zona vocata, proprio qui nella zona di Ostellato, nel parco del Delta del Po, la zucca violina, qui è particolare perché è piena di potassio, perché è irrigata sotterranea con dell'acqua con una percentuale di sale, quindi la zucca secondo me è il fiore all'occhiello. Oltre alla zucca c'è l'anguilla, quindi l'anguilla di Comacchio, altro prodotto veramente interessante, e poi c'è una serie di funghi, c'è una serie di erbe aromatiche, salicornie, pere, volpine, insomma ci sono dei prodotti veramente, veramente interessanti. E poi c'è anche un concetto di cacciagione dove alcuni ristoranti possono usufruire, logicamente solo per i cacciatori in serate particolari, anche la selvaggina legata alla valle, anche questa è una cosa molto interessante. Ecco, ti fermo e poi rimani con noi, perché ora voglio sentire Giorgio Uccellatori, che è un produttore di riso, nonché consigliere del Consorzio Risicoltori del Delta del Po. Perché? Perché proprio oggi ho letto un'agenzia, che credo sia di qualche giorno fa, in cui, se non erro, il riso del Delta è candidato all'IGP. Buongiorno Uccellatori. Buongiorno. È così? Avete fatto domanda e è stata accettata la vostra proposta di riso del Delta come indicazione geografica protetta? Sì, allora guardi, proprio qualche giorno fa ha proprio completato l'iter per ottenere l'IGP, quindi l'IGP è effettiva, è operativa, diciamo, quindi non c'è più nessun altro iter da fare per avere l'IGP, quindi noi è un buon riconoscimento. Ho visto poi che è stata sposata dal ministro Zaia, quindi avete anche così il suggello del ministro. Ma le volevo chiedere, Uccellatori, qual è la cultivar vostra del riso? Vialone Nano, Carnaroli o quale altro? Allora, guardi, il Vialone Nano non l'abbiamo inserito nell'IGP perché c'è già l'IGP del Vialone di Verona. Adesso noi abbiamo Carnaroli, Arborio, Volano e Baldo. Sono le quattro varietà che storicamente sono sempre state coltivate in queste zone qua. Ecco, allora rimanga con noi perché voglio sentire da Corelli cosa ne pensa del riso del Delta. Beh, intanto lo utilizzo già da tempo, il Carnaroli fa parte di una mia tradizione, quindi legata ai piatti con il Carnaroli, insomma, ecco. Gli altri io ne uso poco, insomma. Per me il riso è Carnaroli, poi il resto, insomma, è una storia, insomma. Quindi ecco. Il risotto col Carnaroli, insomma. Sì, il riso Carnaroli. Devo dire che sono sempre un po' preso tra la zona Vercelli e la zona mia. Alla fine, sai, essendo un promotore del territorio, sposo sempre i prodotti che sono vicini a casa mia. Ecco, ma ora andremo a scoprire un altro prodotto che è addirittura l'aglio bianco polesano. Buongiorno a Daniele Panetto, titolare dell'azienda agricola Panetto in Buongiorno. Località San Pietro. Panetto, allora, questo aglio bianco polesano, quale caratteristiche ha particolari? Beh, come caratteristiche è bello bianco, ha una pesatura media e ha un aroma molto, molto intenso. Quindi è un aglio particolare, ma sentiamo Corelli che sicuramente lo avrà testato e sa com'è. Guarda, io sono sempre legato al territorio, quindi ho nel cuore l'aglio di Voghera, che è un aglio dolce, rotondo, ma so che anche questo Veneto è interessante. Tra l'altro poi si palleggiano un po' l'aglio del territorio. Comunque io da buon ostellatese, quindi legato a Voghera, ho in testa l'aglio di Voghera. Beh, io vorrei tornare a Uccellatori per chiedergli, appunto, ha parlato anche di non solo dei risi pregiati come il Carnaroli, ma ha parlato anche di altri tre risi. Volevo chiederle se questi risi sul mercato hanno successo, Uccellatori. Beh, allora guardi, sono tutti sul mercato, però come diceva anche il signore là, il migliore rimane sempre il Carnaroli. Cioè, si presta per risotti, per fare qualsiasi cosa, insomma. Ecco, io poi, se devo dire la verità, personalmente uso il baldo anche per fare anche salate di riso e anche risotti il baldo, mentre l'arborio e il volano si prestano per le minestre. Questo è un po', diciamo, la tradizione che va fatta qui, insomma. Ecco, ecco, mi dica una cosa, è molto vasta l'area dove si produce riso? Qui da noi è abbastanza ristretta se guardiamo tutta la realtà italiana. Prendiamo tutto il delta del Po, a partire da proprio dai comuni di Corvo, Lariano, Taglio di Po, Porto Tolle e un po' anche Porto Viro. Sono tutti comuni tipici. E Senta, Uccellatori, quanti produttori siete più o meno? Allora, il consorzio siamo 15 produttori. Quindi diciamo che la dimensione di ognuno non è molto grande, immagino. No, siamo circa 1800 ettari di risaia, quindi se guardiamo tutta la realtà nazionale è poco, insomma, ecco, però l'area qui, il clima dà una caratteristica particolare, insomma, che ci distingue. Cioè la produzione è tutta acqua, in acqua, sì. Beh, il riso vive in acqua, sì. Qui possiamo utilizzare l'acqua dal Po. Ecco, ultimamente abbiamo avuto un po' di problemi perché c'è qualche risalita del cuneo salino che ha causato proprio la riduzione delle risaie, perché parlavamo di 3.000 ettari fino a qualche anno fa, insomma, praticamente abbiamo dovuto dismettere un po' circa una metà delle zone perché siamo a rischio di essere in grado di approvvigionarci quando è ora dell'acqua. Ok, grazie Uccellatori. Torniamo a Paneto, volevo sapere, Paneto, ma c'è molta produzione di aglio bianco? Diciamo che si parla all'incirca sulla provincia qua di Rovigo, mi sembra circa sui 400 ettari. Quindi siamo tutte aziende sul medio piccolo, quindi dall'ettaro 2 ettari di coltivazione, insomma. Ecco, voi lo vendete localmente o riuscite anche a portarlo fuori, il vostro aglio? Diciamo che noi come produttori lo vendiamo qua localmente, poi ci sono i commercianti che hanno i loro mercati anche all'estero. Senta, Panito, la sua azienda agricola, oltre aglio bianco, cosa produce? Io faccio anche le patate americane, sì. Patate dolci praticamente, sì. Poi faccio del melone, del pomodoro, oltre alle colture cerealicole in generale, insomma. Quindi, mais e grano, e soia e barbabietola da zucchero. Quindi anche melone, benissimo. Anche melone, sì. Grazie. Poca cosa, però. Grazie, Paneto. Io torno a Corelli ancora per pochi minuti perché volevo chiedere a Igles se tu dovessi dare un nome a un piatto che rappresenta il Delta del Po. Ce n'è uno in particolare che uno dice, beh, insomma, questo è veramente il piatto del territorio. L'anguilla e la comachese, secondo me, questo è quello che contraddistingue il territorio del parco, il parco del Delta. L'anguilla e la comachese, secondo me, è proprio il fiore all'occhiello. Da ostellatese innamorato della zucca, sarei per i cappellacci di zucca, però l'anguilla e la comachese sicuramente non ha paragone. E come fa? Ti posso rubare su un secondo? Certo. Il discorso del melone, c'è una zona che pochi conoscono, che è a Filo di Argente, dove ci sono dei meloni veramente incredibili. Guarda, se, d'estate, quando uno va sul parco, secondo me se va, arrivano fino a Filo per acquistare i meloni, lì è un punto veramente, veramente particolare. Bene, ti ringrazio di questa chicca. Ciao Igles, a presto. No, ciao. Continuiamo questo itinerario da Andria, da Adriapa verso il delta del Po, e quindi sicuramente facciamo un viaggio forse a molti sconosciuto, ma sicuramente molto interessante, come già stiamo vedendo così dai personaggi che sono intervenuti, che ci hanno raccontato appunto di pesce, ci hanno raccontato di cucina, ci hanno raccontato di prodotti. Ma ora noi continuiamo questo viaggio e vogliamo fare anche qualche escursione, perché appunto nel delta del Po sicuramente le escursioni sono di casa, visto anche come è messo dal punto di vista geografico. Abbiamo sentito di 5 rami attivi, appunto abbiamo sentito di lagune e di valli, quindi forse c'è da sbizzarrirsi. Allora io voglio parlarne con Stefano Cacciatori, che è un figlio d'arte, perché mi è stato detto che il padre è stato un grandissimo così conduttore di escursione, una grandissima guida. Buongiorno Cacciatori. Buongiorno. Allora, se io mi mettessi nelle sue mani e arrivassi appunto a Porto Tolle, dove lei vive, o da altre parti, e volessi fare delle escursioni, lei dove mi consiglierebbe, dove mi porterebbe? Ci sono tanti posti dove si può visitare il Delta. Partendo da Porto Tolle, forse la parte più interessante da fare è quella della navigazione lungo il Po di Maestra, che è il ramo più piccolo del Delta, ma forse quello che è il più bello, il più incontaminato del Delta del Po. Ha detto navigazione? Lungo il Po di Maestra. Sì. Ecco, allora ci racconti un po' com'è questo, diciamo, lungo il Po di Maestra, cosa si può vedere? Il Po di Maestra è un ramo molto ricco di vegetazione, dove ci sono ampie golene, e fortunatamente negli anni questo ramo non è stato toccato dai lavori di rafforzamento degli argini che si sono susseguiti nei vari anni, causati dalla subsidenza dovuta all'estrazione del metano, e quindi da questo punto di vista è stato preservato e oggi ci fa ammirare una natura quasi incontaminata, dove trovano rifugio tantissimi uccelli. Bellissima è la Garzaia, cioè una città di nidificazione degli eroni, un luogo di nidificazione degli eroni che troviamo proprio lungo questo ramo. Ecco Stefano, ma come si fa questa navigazione? A bordo di barche? Sì, a noi utilizziamo delle imbarcazioni particolari, perché il Po di Maestra, come vi dicevo, è il ramo più piccolo del Delta del Po e non si riesce a navigare con le grosse motonavi, quindi navighiamo con una piccola imbarcazione che riesce a passare sotto il ponte che unisce le due sponde del Delta del Po, del comune di Portoviro e di Porto Tolle, e poi anche nei bassi fondali che troviamo lungo questo ramo. Senta, e si può mangiare a bordo anche? Lungo il Po di Maestra no, ma scegliendo altri itinerari si può fare anche questa escursione, dove si riescono ad assaporare a bordo delle motonavi e anche i sapori del Delta, quindi il pesce e i piatti tipici della nostra zona. Ecco, Stefano, rimanga con noi, si prepari un altro itinerario, perché ora io vado a Rosolina di Rovigo da Maurizio Ruzza, titolare del ristorante Albocon da Maurizio. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Allora Maurizio, se io mi fermo appunto a Rosolina, entro nel suo ristorante, cosa mi offre? Tirato via tutti gli antipasti di pesce, quello che può essere tutto il pesce, facciamo dell'ottima anguilla, la facciamo sia in umido che in ferri, o col toccio, come si suol dire nel nostro basso polesine, con piselli e la varia selvaggina, le anatre, tutto quello che si parlava prima, insomma. Ma senta, ma lei l'anguilla dove la compra, dove l'acquista? Io la conquisto a Chioggia o Comacchio, in base dove si trovano il periodo migliore per comprarle, insomma. Quindi nei due mercati, Chioggia o Comacchio, non certo. Al mercato di Scardovari? Anche Scardovari, però ci viene di meglio fare che Comacchio e Chioggia, noi più Chioggia, che siamo vicini a Chioggia. Ecco. Senta, ma continuiamo un secondo, di primi piatti cosa possiamo assaggiare di specialità? Noi di primi piatti facciamo gli ottimi bigoli con del radicchio e dei calamaretti nostrani nostri qua nel nostro mare Adriatico. Senta, ma i bigoli le fa lei? Facciamo noi tutta noi la pasta fresca. Quindi col torchio la fa? No, facciamo una volta col torchio, adesso un po' meno. Il torchio era duro, ma c'ha il torchio vecchio magari tenuto in esposizione, perché ci sono molti che lo tengono solo in esposizione. L'abbiamo esposto, l'abbiamo qui nel comune, un paio di torchi, li abbiamo esposti a una manifestazione qua in piazza, li troviamo volendo. Senta Maurizio, abbiamo allora il primo mangiamo i bigoli e poi per secondo piatto cosa mangiamo? Secondo piatto ci sono tutte le varietà di pesce alla griglia, che abbiamo il nostro fuoco a legna in sala, proprio in sala centrale, e l'anguilla, in maggior parte mangiano parecchia anguilla, i ferri la mangiano volentieri, oppure in umido con il toccio, con i piselli o anche con le giuggiole, ecco, noi facciamo. Ah, con le giuggiole, certo, fantastico. Facciamo l'anguilla in toccio con le giuggiole. Quindi cioè diventa dolce con le giuggiole. Tira via tutto quel l'unto, ecco, quelle cose lì, dà quel garbo che può essere sostituito dall'aceto, limone e tutte quelle cose lì. Ecco, le giuggiole, quando si dice brodo di giuggiole, molte persone si pongono, ma cosa significa? Significa che vuol dire che è dolcissimo, perché la giuggiola è dolcissima, è un po' difficile, certo, da trovarsi. Da voi si trovano ancora le giuggiole, sì? Sì, si trovano, abbiamo parecchi alberetti e si trovano anche al mercato qua a Rosolina, si trovano. Senta una cosa, ha parlato di fuoco a legna, quindi lei ha ancora il fuoco a legna? Io ho il focolaio nella sala, sì. Quindi è rimasto uno dei pochi. Rimanga con noi, perché torno un secondo da Stefano Cacciatori, che mi voglio far raccontare un secondo itinerario. Poi sentiamo i dolci e sentiamo altre cose dal nostro Maurizio. Stefano, allora, partiamo per il secondo itinerario. Partiamo sempre da Porto Tolle e navighiamo lungo il ramo principale, sì, che è il Po di Venezia, e arriviamo fino alla foce dove il fiume cambia nome e prende nome delle bocche del Po di Pila, quindi sono le tre foci principali del fiume. E durante questo tragitto, durante questa partenza, ci racconti un po' cosa vediamo? Vediamo innanzitutto la diramazione più grande del fiume, dove il Po Grande o Po di Venezia si divide in due e si stacca il Po di Tolle, che scende verso sud. Superiamo questa diramazione e arriviamo nella zona della foce principale, dove il fiume va a formare, quando incontra il mare, quindi queste grosse estensioni di canneti che formano i famosi bonelli, le isole che troviamo sulla foce del fiume, gli scanni e le barene. E un indirizzo durante questo itinerario per mangiare? Ci sono vari ristoranti nella zona del delta, fortunatamente si trovano tutti a ridosso del fiume, quindi con le nostre motonavi abbiamo anche questa possibilità di fermare la motonave in prossimità di tantissimi ristoranti sul delta del Po. Senta, si va anche d'inverno sul delta del Po? Si va un po' meno, però si va lo stesso. Perché c'è nebbia, immagino? Le richieste sono minori, un po' per il freddo, un po' per la nebbia, però ci sono delle situazioni molto emozionanti anche durante il periodo invernale, visto che è anche il periodo dove c'è la maggior presenza di uccelli. Ah, ecco, quindi c'è anche una selvaggina importante, quindi da vedere. Bene, rimanga ancora con noi Stefano, magari poi pensiamo a qualche cos'altro, ma io torno a Rosolina dal nostro Maurizio. Maurizio, allora abbiamo mangiato l'anguilla con le giuggiole e poi dopo l'anguilla con le giuggiole cosa mangiamo? Si può mangiare come dolce una buona crostata di morbida ripiena al caffè, si può mangiare della torta fatta con la zucca, si può mangiare altri dolci fatti da noi, insomma. Senta, e la selvaggina invece c'è qualcosa? La selvaggina facciamo uso anche di quella, facciamo del sugo d'anatra per fare delle pappardelle e facciamo delle anatre in umido al forno con dei funghi porcini e tutte quelle cose lì, insomma. Senta, ma è vero che nel Rovigotto, nella zona di Papozze, si trova il tartufo? Si trova una qualità di tartufo abbastanza saporita, abbastanza profumata, è un buon tartufo, ecco. Tartufo bianco, è vero? Certo. Senta, un'altra cosa, abbiamo al mercato, allora si va appunto a Chioggia oppure si va a Comacchio, e per comprare invece la selvaggina dove si va? Dai cacciatori? Oggi come oggi si propongono le varie valli di caccia, che attualmente prima facevano pesce, adesso si sono dedicati più alla caccia perché forse è più ricca e compriamo gli uccelli da loro, insomma, vari germani, vari uccelli vengono fodiche, vengono comprate da questi proprietari di stivalle che vanno a caccia ogni sabato. Ah, ogni sabato quindi? Certo. Senta, ma il fischione si trova ancora? Qualche fischione lo trovano ancora. Io lo trovo straordinario il fischione, non so lei cosa ne pensa. È molto, molto morbido, molto morbido. ovido e sa poco anche di selvaggina, diciamo, è un po' un uccello molto particolare. Quindi bisogna prenotarlo forse? Certo, e abbiamo anche le canapiglie, che è un altro uccello che sa poco di selvaggina ed è molto molto molto profumato. Canapiglie, cos'è questa canapiglia? È un uccellino un po' più piccolo dell'anatra, diciamo, peserà un mezzo chilo, sì, no, un chilo. Ed è regolare, sì, si può mangiare. Sì, è regolarissimo. Non è che sia bandito. Ed è molto pregiato perché ci ho fatica a trovare. Senta, un'ultima cosa le chiedo, Maurizio. Lei è molto simpatico, per cui è un piacevole parlare con lei. Ma cosa beviamo? Beviamo sempre rosso? Sempre rosso, sempre del Cabernet Franc o dei vini veneti che adoperiamo noi. Ma non del territorio, perché è l'unica cosa che vi manca, forse? Un pochino ce l'abbiamo comunque. Va bene, grazie Maurizio, grazie Ruzza, a lei, del ristorante Al Bocon, Rosolina di Rovigo. Torno a Stefano Cacciatori. Stefano, ci siamo dimenticati di qualche itinerario importante? Ma arrivati uno in particolar modo sì, perché arrivati nella zona di Foce, proprio sulla foce principale, riusciamo, cambiando barca, quindi riprendendo la barca a fondo piatto che naviga sui bassi fondali, riuscire a navigare fra le lagune della foce principale e arrivare fin su Scanoboa. Quindi si naviga con una barca piatta, questo cosa significa? Che si vede sotto? No, che si riesce a navigare su fondali bassissimi, perché la caratteristica delle lagune del delta è che hanno dei fondali molto bassi dove l'acqua difficilmente supera il metro di profondità, quindi le motonavi, le barche più grandi non sono adatte a questo tipo di navigazione, ed anche perché si passa all'interno dei canneti su piccoli canali chiamati paradei che congiungono praticamente i rami del fiume alla laguna. Bene Stefano, lei è stato bravissimo, ci ha raccontato con grande chiarezza questi itinerari, ma per fare tutte queste escursioni dove ci si deve rivolgere? Ai vari uffici informazioni, uffici IAT della provincia di Rovigo, oppure direttamente alle nostre agenzie, la nostra sede che è a Porto Tolle, quindi mi a sembra Porto Tolle, sì, prendiamo le prenotazioni e mettiamo tutte le settimane i programmi delle uscite. Ah, ecco perché appunto ci sono, non è che uno da solo può venire e può fare il viaggio. No, c'è anche questa possibilità di uscire da solo con la barca esclusiva, ma non per tutti questo logicamente, chi ha l'opportunità anche di venire senza prenotare, si può salire su escursioni già programmate. Senta, le chiedo una cosa in particolare, quanto costa fare queste escursioni per una persona? Le escursioni vanno, il programma che abbiamo fatto nel 2009, che è valido anche per il 2010, vanno dalle 8 alle 12 euro. Bene. Un'escursione di mezza giornata al massimo. Grazie a Stefano Cacciatori. Continuiamo questo viaggio nel Delta del Po e ora andiamo a Portoviro, sempre in provincia di Rovigo. Andiamo a scoprire cosa si trova nel mercato ittico di questo borgo. Ne parliamo con Guido Donà, presidente della cooperativa Eridania, che gestisce appunto il mercato, e poi sentiremo anche una ristoratrice che ci parlerà appunto dei piatti, questi piatti della memoria di questa area, di questo territorio. Buongiorno a Guido Donà. Buongiorno. Allora Donà, se uno viene al mercato ittico di Portoviro, quali qualità di pesce trova? Qui abbiamo delle specie di laguna, anche di fiume, pregiate, vedi il Lucio Perca ad esempio, abbiamo pesci di valle, di acquacoltura. Ci dica qual è il pesce di valle, quali pesci di valle? La bosega, che è un cefalo, mugine, branzino, orata. Insomma si trova veramente tutto il pesce, è la gioia dei ristoratori immagino. Senza, sì. Ma si trovano anche i fasolari? No, i fasolari no. Perché io ricordo di aver mangiato un pranzo tutto a base di fasolari proprio a Portoviro. Quelli vengono da Chioggia, quelli. Ho capito, vengono da altrove. Bene, rimanga con noi Guido, ora abbiamo con noi Antonella Bianchi, che è titolare del ristorante Cornera, sempre di Portoviro. E chiediamo lei, quali sono i piatti di tradizione di questo territorio? Immagino molti a base di pesce, perché avendo un mercato ittico così vicino, ritengo che sia la cosa forse più facile, oppure no? Ci sono tanti piatti a base di pesce, perché appunto, come dice lei, il mercato qui è molto fiorente, florido, insomma. Ma nel mio ristorante si fa anche carne, perché io faccio i piatti della memoria, quindi faccio due menù, quello dell'acqua e quello del cortile. Ci racconta prima quello dell'acqua? Quello dell'acqua, varia dalle... Lei vuol sapere un piatto in particolare? Sì, o ma non... magari ci dai i nomi dei piatti, cioè, diciamo così, velocemente, poi vediamo magari se approfondiamo qualcosa. Perfetto, faccio le vongole, le cozze in guazzetto rosso, le sarde in saor, che sono proprio tipiche nostre. Poi come antipasti mi fermo lì, poi a seconda della stagione ci possono essere le cannocchie, le capesante, così. Di primi piatti c'è un piatto che è particolare, che sono i risi e fagioli alla canarola, che è un piatto a base di riso e fagioli che però sposa bene sia la carne che il pesce, in quanto era un piatto della zona, si faceva con poco, no? La zuppa di pesce, gli spaghetti alle vongole, ovviamente. Ecco, nelle zuppe di pesce quanti pesci ci vanno, più o meno? 4-5? Io ne metto molti di più. Perché avendo la fortuna di avere pesce di laguna, pesce di mare, pesce di acqua dolce... Esatto, faccio un bel mescolone. Quindi fa un bel mescolone. Dagli 8 ai 12. Ah, fantastico. Quindi sicuramente con quel piatto lì si chiude la giornata, immagino. Sì, si può anche chiudere la giornata volendo, sì. Piatto, si parla tanto di piatto unico, questo credo che sia, questo possa essere, può essere un piatto unico, sì, d'accordo. E poi andiamo avanti, perché siamo arrivati sempre alla zuppa. Ci sono dei secondi particolari? Sì, il bisatto in teccia, che sarebbe l'anguilla in umido, no? Certo. Poi facciamo il baccalà arrotolato, che è una cosa molto... faccio anche gli altri baccalà normali, sia in bianco che in rosso, ma il mantecato anche, che è più veneziano che nostro, però quello particolare è l'arrotolato. Poi di pesci posso fare, faccio branzino al sale. Ecco, allora ci fermiamo, poi ci racconterà il menù di carne e torniamo a Guido Donà, perché torniamo al mercato ittico di Portoviro. Volevo chiederle, Donà, arriva molta gente da fuori al vostro mercato? Sì, tanta gente da fuori, okay. Cioè è un mercato all'ingrosso, ecco, come quella signora lì, sento che sicuramente dei prodotti nostri non arriva direttamente, cioè non viene lei direttamente qua nel nostro mercato, ma sicuramente arriveranno attraverso i commercianti, che qui abbiamo un concentramento commerciale qui a Portoviro grande di società commerciali, ecco, e queste sicuramente forniscono anche questa signora di questo ristorante. E io confermo tutte quelle piattasse che ha fatto tipicamente del Delta. Non ho sentito però quella bella frittura che si fa con le molecche. Sa cos'è le molecche? Sì, lo so benissimo cosa sono. Sì, mi piacciono anche molto. Sono buonissime, e abbiamo anche di quelli. E si mangiano con le mani, invito a mangiarle con le mani, sì. Mi raccomando. Ecco, questo. Sì. Senta, Donà, volevo chiederle, ci sono anche le aste di cassette di pesce da voi al mercato ittico oppure no? Sì, facciamo l'asta. Ecco, alle 4-5 del mattino, immagino. No. Facciamo le 9 noi, perché okay. Andiamo, cioè ci scambiamo un po' gli orari con Chiosa e con qualche altro mercato, insomma. Con Comacchio, immagino. Bene, grazie a Guido Donà del mercato ittico di Portoviro. Torniamo alla signora Bianchi. Allora, sentiamo il menù di cortile, l'ha chiamato lei, mi sembra, vero? Ecco, io ho sentito quello che diceva Donà, avevo dimenticato di dirle il fritto misto. Bene. Il fritto misto fresco e anche le molecche ovviamente, quando certo. È stagione, però le molecche soltanto. Passano in un certo periodo, quindi solamente in quel periodo. Sì. Senta, sì. E invece il menù di cortile? Il menù di cortile invece, qui c'era un antipasto con salumi della zona, che possono essere gli insaccati, il salame, la coppa, la pancetta, i nostri tipici di qua, no? E poi non so, mi sono inventata la zucca in saor, sì, per esempio. E poi come antipasti basta, così, insomma, i, sì, formaggi con le marmellate posso servire, che sono solo formaggi del pastore, certo. Quindi formaggi della nostra zona. Poi di primi piatti faccio molti pasticci inverno, per esempio quello di zucca, e a seconda della stagione uso le verdure di stagione, non so, gli asparagi quando vedo gli asparagi, quello di porro e miele, per esempio, pasticcio. Facciamo le tagliatelle fatte in casa con ragù o con altri sughi su d'anatra, per esempio, molto buono. Di secondi piatti facciamo carne ai ferri e qualche arrosto a seconda delle richieste che abbiamo. Ho capito. E fate anche anatre, faraone o d'altro? Sì, facendo il pollame, sì. E quando c'è stagione, per esempio adesso, anche se il mio ristorante in questo momento è chiuso perché qui il turismo è più... siamo un po' fuori stagione, certo, per il turismo. il mio locale è collocato sotto un argine del Po, quindi in zona proprio strettamente turistica, e la selvaggina adesso d'inverno. Bene, io la ringrazio Antonella Bianchi, Cacornera, Portoviro di Rovigo. Ebbene, questo viaggio l'abbiamo concluso, abbiamo visto tantissime cose, abbiamo già mangiato a sufficienza forse per oggi con tanti piatti, e devo dire affascinanti questi itinerari che ci sono stati raccontati, quindi sicuramente itinerari da visitare. Sicuramente il Delta del Po è un territorio che vale la pena di essere conosciuto. Io vi saluto, vi do appuntamento domani alle 10 per la replica di questa trasmissione, alle 12.15 con il Wine Bar del Gastronauta e ogni giorno con la pillola alle 18.30. Buona giornata da Davide Paolini.